Rumori d'animo. Mi sento fantastico, elastico. Vi sento, vi vedo, urlate, urlate. Frementi, felini, ingabbiati, stalloni, imbrigliati, draghi, spumanti, fischianti, siete 10, 100, 1000. Fate disperatamente in fuocate. Continua.